mia donna a trucidar colui che barbaro inumano o mi uccise l'amante a te il germano. Maglio tradito, ma l'infelice tu pur l'utrice destra arma da ciar concente. E a te fratello, e a te consorte, andiamo nel ferite. Oddio, maglio ben comicina il nido altino. Servili ancor tu pensi a colui traditor. Povero Maglio, quanto compatisco il deplorabil tuo misero stato, che l'esser strapazzato da una femmina sola è gran tormento, ma da due chi soffrir ponta al spavento.